L'occhio di carafa, 1535. Lettera inviata a Roma dalla città di Münster, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 30 giugno 1535. All'illustrissimo e reverendissimo signore Giovanni Pietro Carafa in Roma. Signore mio osservandissimo, allorché stringerete tra le mani questi fogli, sarà certo giunta alle orecchie di vostra signoria la notizia della fine del regno di Sion nella città di Münster. Giacché grandissima è l'attenzione di tutti gli stati sulle sorti dell'assedio, e specialmente grande è l'attenzione di vostra signoria per le vicende che la interessano. A tale interesse e alla curiosità naturale di un uomo coltissimo e istruito, faccio dunque appello affinché questa mia lettera possa avere una sua utilità, illustrando alcuni particolari che mi parvero significativi in questi ultimi mesi di silenzio, e senza dimenticare che vostra signoria ha sempre mostrato di apprezzare grandemente le informazioni di prima mano, ben sapendo che gli accadimenti più inquietanti sono i più soggetti a essere arricchiti di particolari inesistenti, false interpretazioni, sovrapposizioni fiabesche. Mi sia consentito cominciare il racconto con una riflessione quasi intima, che servirà certamente a vostra signoria per leggere nella giusta luce quanto verrò esponendo, e cioè che mai, nei 36 anni che Dio mi ha concesso, ho vissuto mesi così faticosi per il corpo, così prostranti per la mente, così inquietanti per lo spirito, come accade a un uomo sano che debba farsi pazzo tra i pazzi. Quell'uomo, per quanto rigorosamente sorvegli le province del suo spirito, coverà spesso l'atroce sospetto di aver smarrito irrimediabilmente la sua propria natura e assumendo spontaneamente gli atteggiamenti del folle e stringendo amicizia con le persone malate di finire col comprendere meglio delle persone sane. Dunque, il ritorno alla vita normale non gli sarà né facile né immediato. Nei mesi decisivi della caduta di Münster ho visto le scorte di cibo farsi sempre più magre, insieme ai volti degli abitanti. Ho visto in una settimana sparire tutti i topi dalle vie della città e ho cominciato a sospettare che non per mania, ma per lucido calcolo, Jan Bokelson abbia cominciato a far giustiziare un sempre maggior numero di sudditi disobbedienti. Meno bocche da sfamare e più carne da mangiare. Posso dire che, qualora il fronte degli anabattisti fosse stato davvero compatto, il compito mio sarebbe risultato molto meno gravoso. Avrei identificato facilmente il popolo asserragliato dentro le mura con le forze di Satana e i mercenari accampati fuori con le truppe del Signore. Per come andarono le cose, invece, diventò sempre più difficile non considerare il re di Sion e la sua corte come i soli veri nemici, giudicando il resto degli assediati come un gregge incolpevole. La tremenda pazzia di Bokelson rendeva meno orribile la pazzia anabattista di tutti gli altri. Così, più di una volta, mentre lo sentivo promettere alla sua gente che le pietre del selciato si sarebbero trasformate per loro in pane e cosce di fagiano, ho provato un desiderio inestinguibile di ucciderlo, di cancellarlo dalla faccia della terra, per sollevare molti poveretti da quel giogo, sopportato solo per la presenza di un pericolo più grave fuori dalle mura. Nonostante questo, proprio chi scrive la signoria vostra fu responsabile in prima persona della spaccatura che si venne a creare all'interno della città. Fin dall'arrivo di Jan Mattis, cominciai ad accattivarmi le simpatie del primo predicatore della comunità, Bernard Rothman, uomo di un cervello fino e di grande cultura, di cui accennai nella mia ultima lettera ormai più di un anno fa. Quando vidi il modo in cui costui venne messo da parte dal nuovo profeta Mattis, mi resi subito conto che una tale sapienza poteva tornare utile ai miei piani. Avrei potuto far leva sull'insoddisfazione del condottiero mancato, dell'uomo di Bibbia accantonato da rozzi, lenoni e fornai. Ma Rothman si ammalò gravemente e con la salute cominciò a venir meno la voglia di emergere e di lottare. Finì per l'accontentarsi di fare il teologo alla corte di Jan di Leida. Eppure, nessuna persona colta, per quanto debole e affaticata, poteva sopportare a lungo lo spettacolo del regno di Sion. Non so come ebbi l'idea della poligamia. Probabilmente mi ispirò la leggenda che gli anabattisti, oltre ai beni, mettessero in comune anche le donne. Discussi a lungo con Bernard Rothman sulle usanze dei patriarchi delle sacre scritture in materia di matrimoni, finché il predicatore non consigliò a Bokelson quel provvedimento, tanto odioso da rendergli ostile il popolo. Da allora tutto venne sommerso in una marea di sangue e Rothman finì per prendere 14 mogli. Ma lo spirito della città assediata, che fino a quel momento aveva resistito compatto agli attacchi del vescovo von Waldeck, non avrebbe mai più conosciuto l'unità. Così non ci sarebbe stato bisogno di un traditore, se soltanto le forze assedianti fossero state meglio organizzate e meno impaurite dagli insuccessi. Eppure l'assedio sembrava destinato a non finire mai. È vero che la nuova Sion era ormai sul punto di cadere per fame, ed è vero ancora che la morsa stretta dalle truppe del vescovo riuscì dopo un anno a essere veramente efficace. Ma alla lunga un esercito mercenario è solito sfaldarsi e perdere vigore con l'aumentare del ritardo della paga. Ho raggiunto il campo dei vescovili all'alba del 24 maggio, con gli archibugi dei mercenari puntati alla testa e le grida delle sentinelle della città che mi intimavano di tornare indietro. Ho vinto la diffidenza del capitano Wirich von Daun, costruendo modelli in argilla delle fortificazioni di Münster e descrivendo nei dettagli i vuoti del servizio di sentinella. Ho dovuto confermare l'esattezza di quanto dicevo arrampicandomi nottetempo in cima ai bastioni della città ed uscendo illeso da una delle porte. Un mese dopo, le truppe vescovili hanno fatto il loro ingresso a Münster. Sulla battaglia che si è svolta dentro le mura non ho particolari da offrire, poiché non mi è stato concesso di assistervi. Quello che è accaduto in seguito, invece, è una cosa che nessun occhio umano vorrebbe mai vedere e nessuna bocca potrà mai descrivere. Le ricerche, le uccisioni, il massacro si susseguono tuttora. Ognuno viene trucidato sul posto. Soltanto Jan Bokelson e i suoi due uomini più fidati, Krechting e Knipper Dolling, sono stati catturati per essere interrogati. Nell'ora fatale, il re degli Anabattisti non è stato visto combattere nella piazza insieme agli strenui difensori della città, bensì è stato scovato nella sala del trono, nascosto sotto un tavolo, implorante che non facessero alcun male a un piccolo sarto e miserabile lenone. Riguardo a Bernard Rothman, la sua sorte è materia per le congetture più varie. Non è stato fatto prigioniero e il suo cadavere non è da nessuna parte. Ma qualcuno dice di aver visto un ungherese piantargli una spada tra le scapole e poi, riconosciutolo come uno di quelli che il vescovo aveva ordinato di catturare vivi, fare in modo di nascondere il corpo. In tutti i vicoli giacciono cadaveri e la città è appestata da un odore insopportabile. Nella piazza centrale si erge una catasta di corpi bianchi, spogliati e ammucchiati uno sull'altro. L'arrivo del vescovo von Waldeck non ha giovato più di tanto alla salute di Münster. Tuttora le strade della città sono vuote anche a mezzogiorno e i banchi per la vendita degli ortaggi non sono ancora ricomparsi sotto i pinnacoli del municipio. Molto tempo dovrà passare prima che la vita torni a scorrere in Münster, anche se ai lavori di ricostruzione della cattedrale è già stato dato inizio. Tuttora cerco di ritrovare le forze e la risolutezza perdute in questo carnevale di morte, ma la danza macabra di questa città ci costringe tutti nel suo volteggiare, come un contagio di peste, come se l'odore dei cadaveri mutasse in cadaveri anche i vivi. E così sarà per gli Anabattisti, tra qui e i Paesi Bassi, ora che il faro della loro speranza è stato spento. Molti partigiani di Münster, inviati da Bokelson a sobillare alle genti d'Olanda, si aggirano tuttora tra quelle terre, ma i loro giorni sono contati e sempre meno saranno i folli che vorranno prestargli ascolto. Ecco perché credo che la sorte di questa esecrabile eresia sia ormai segnata e il pericolo debellato. Per lo stesso motivo, credo di aver esaurito il compito assegnatomi da Vostra Signoria, compito al quale ho sacrificato tutte le forze del corpo e della mente, fino a essere profondamente provato dall'orrenda tragedia di cui sono stato spettatore e comparsa. Al mio Signore non sarà quindi difficile comprendere le ragioni che mi spingono a chiedere di essere allontanato dal nauseabondo e mortifero odore di queste terre e di continuare a servirlo, se mai potranno tornargli ancora utili i miei servigi, in altri luoghi e circostanze. Raccomandandomi alla benevolenza della Signoria vostra, bacio umilmente le mani. Dato in Münster, il 30 di giugno dell'anno 1535, il fedele osservatore di Vostra Signoria.